Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune rapide informazioni di servizio. Partiamo dal sito radio24.it. Potete scaricare in tempo pressoché reale tutte le puntate di qualunque trasmissione, quindi a partire dalla mia, che come sapete va in onda la mattina presto, ma oramai sempre più radioascoltatori se la scaricano via podcast in tranquillità durante il giorno. Con me potete interloquire, sapete che ho un blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate attraverso il mio profilo oppure sull'home page del Sole 24 Ore. L'ultima informazione è quella a voi più cara, la mail unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale rivolgervi. Così ha fatto un nostro radioascoltatore, si chiama Riccardo Scarcelli, che ha inviato una lunga lettera che riguarda quella che lui definisce una furbata messa in atto da un volto noto della TV, soprattutto per chi negli anni passati ha seguito le trasmissioni di Aldo Biscardi, un giornalista spesso presente, all'epoca era direttore della schedina, non so se lo sia ancora, poi glielo chiederemo. Una furbata che avrebbe, ovviamente il condizionale è d'obbligo, non sta a noi fare i giudici, che avrebbe, come dire, irretito diverse persone promettendo appunto forse la vincita attraverso l'acquisto di quote presso svariate iniziative di gioco. Ma per capirne di più noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo registrato la lettera, l'abbiamo letta perché il radioascoltatore non poteva intervenire, e ovviamente abbiamo chiamato ad interloquire proprio Vincenzo Carchidi, al quale intanto do il buongiorno. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono lieto fra l'altro di essere in questa trasmissione, quindi di poter dire a un pubblico più vasto le mie ragioni. Benissimo. Diciamo che abitualmente io andavo sui mezzi di comunicazione per ben altri motivi. Esattamente. Adesso mi trovo così. Allora, io direi, mandiamo la lettera spicherata e poi subito con Vincenzo. Prego. Vi invio la presente per segnalarvi un possibile caso di furbata messa in atto da tal Vincenzo Carchidi, persona che anni fa presenziava anche in una trasmissione di Aldo Biscardi, tramite pubblicità via rete internet. Questa persona si è fatta promotrice di svariate iniziative di gioco nei più svariati campi. Tutti gli sport, super enalotto, giocate in borse e chi più ne ha più ne metta. Ha messo in vendita moltissime quote per ogni iniziativa, quote che sono state acquistate da centinaia e centinaia di persone. Ad ogni fine iniziativa, invece di pagare le vincite, sempre tutte con bilancio negativo, ne ha sempre riproposte di nuove, proponendo altresì ai partecipanti uno storno delle vincite nei giochi appena conclusi, per acquisto di nuove quote a nuove giocate. Ritengo che ci sia stato un giro di svariate migliaia di euro pagati dai partecipanti. Il perché ritengo questa vicenda una furbata lo spiega il fatto che 15 giorni fa questa persona ha chiuso tutte le sue iniziative senza neppure terminare le giocate previste. Ci sono quote che sono state acquistate per giocate che andavano sino a fine 2010, altre sino a metà 2010, e ora tutti i partecipanti si ritrovano con un pugno di mosche. Il tutto si è sempre svolto in internet, con pagamenti tramite bonifici, carte di credito o carte prepagate. La mia speranza è che possiate interessarvi del caso. Colgo l'occasione per ringraziare e inviare i miei saluti. Riccardo Scarcelli. Questa era la lettera, abbastanza cruda, ma devo dire molto molto pulita. Io sono andato a vedere poi anche il forum, effettivamente molto molto animato, ma ho visto anche il sito, il blog di Vincenzo Carchidi, che è grandejackpot.blogspot.com, e devo dire che il collega Carchidi parte con quello che è una promessa a tutti gli effetti: rimborserò tutti. Ora Vincenzo, ci diamo del tu perché siamo colleghi. Sì, volentieri. Ecco, io parto con una battuta e prendila come una battuta ironica. È firmato questo tuo articolo giovedì 1 aprile 2010. Convincici che non è un pesce d'aprile. Assolutamente, sai, ci avevo fatto caso pure io, ecco. Penso, sì, decisamente no, non ho certo voglia di scherzare perché la cosa è abbastanza seria. Ecco, che cosa è successo? Spiegaci un po'. Succede questo, allora intanto mi fa piacere che il lettore abbia sottolineato che tutto è avvenuto tramite bonifici e situazioni di perfetta tracciabilità bancaria. Da questo è possibile vincere e comunque dimostrare in qualsiasi momento che non un solo centesimo di quanto versato dai partecipanti, confermo sono parecchie migliaia di euro, non c'è dubbio che si tratti di questo, di decine. Non un centesimo, dicevo, è finito nelle mie tasche, non un centesimo in particolare è stato utilizzato per finalità diverse da quelle per cui era stato richiesto. Insomma, dal gioco, diciamo. Sì, esatto. Il disavanzo è stato dovuto a una ragione molto semplice, dalla quale io, non seguendo mai l'aspetto amministrativo, perché sono proprio negato, anzi ci sono ho fatto male a non essere costantemente al corrente, ma il disavanzo è stato determinato puramente dal fatto che in ricevitoria tu devi convalidare il 100% di un sistema. Se poi di quel sistema ne hai venduto il 70%, il sistema non vince, il 30% rimane invenduto, tu lo devi pagare. Poi succede che quando questa situazione va avanti, si incancrenisce, io sicuramente ho avuto una colpa di omissione di controllo nei riguardi della società che gestiva, certo, la cosa. Per inciso, solo una minima parte della situazione, hai fatto riferimento al grande jackpot che in cui si è svolta un'iniziativa, una delle pochissime iniziative e anche di poco conto che ho organizzato personalmente senza scopo di lucro, perché le altre iniziative non sono state organizzate da me ma da una società che un tempo in qualche modo era collegata a me, verso la quale io non avrei nessuna responsabilità né giuridica né di altro tipo, ma di cui mi assumo la volontà di pagare esclusivamente per salvare la mia faccia e perché incautamente ho fatto da testimonial senza poi... Ecco. Allora, fin qui chiaramente io mi assumo quindi... Tutte le responsabilità che ti... certo. Per inciso, quello che ho detto lo dico per me, ma lo dico anche per la Messaggio Verde, che assolutamente non ha stornato nemmeno un centesimo per finalità diverse. Questo appunto è rintracciabile. Ecco, ma io ti vorrei fare una domanda, Vincenzo. Cioè, nel momento in cui voi vi siete resi conto, tu hai onestamente parlato di un... colpa in vigilando, cioè non sei stato probabilmente attento a quello che accadeva. Ecco, ma nel momento in cui invece ve ne siete probabilmente accorti, tu perché magari la società te l'ha comunicato, non era meglio avere subito un'opera di trasparenza? Me ne sono accorto progressivamente perché i rimborsi inizialmente venivano fatti in maniera abbastanza regolare, poi parliamo di tantissimi rimborsi che alla fine mettono su una somma di circa 50.000 euro, sì. Ma la stragrande maggioranza di questi rimborsi sono quote da 5 o da 10 euro e il guaio grosso è proprio questo, perché si tratta di tanti euro distribuiti su migliaia di partecipanti, piccole somme, pochissime hanno qualche credito di centinaia di euro. E quindi, scusa il termine, lo sputtanamento è avvenuto presso un pubblico vastissimo, certo. E per delle cifre irrisorie che aggravano la situazione, per cui molta gente ha pensato, ma guarda tu questo, se non ci dai 5 euro figuriamoci se avessimo 20 miliardi. Però a questo proposito vorrei sottolineare che io sono lo stesso Carchiti che nel periodo 96-97 ha distribuito qualcosa come 7 miliardi e 200 milioni di lire vinte al Totogol ai legittimi proprietari che avevano partecipato senza ritardi e senza contrattempi. Certo. Cioè, se avessi voluto fare la furbata probabilmente avrei trovato più comodo. Certo. Più redditizio. Insomma, per te è stata una bruttissima disavventura, però mi pare una disavventura per te, una disavventura per... Vabbè, io sono bruciato, io sono bruciato e fra l'altro, guarda, continuo a pensare sempre meglio invidiato che compatito, però ho il dovere comunque di sottolineare che io 5 anni fa ero una persona che 50.000 euro li guadagnava in un mese ed era così scemo pure da denunciarlo interamente al fisco, per cui era una persona che ha dato allo Stato italiano qualcosa come 50 miliardi di vecchie lire e che oggi si ritrova senza un soldo, senza una casa, senza una pensione, senza nulla, perché 5 anni fa si è ammalata mia moglie, io ho abbandonato purtroppo, poi l'ho persa un anno e mezzo fa, non era una moglie qualsiasi, ci eravamo cresciuti insieme da quando eravamo bambini e su 50 anni 36 li ho trascorsi con lei, quindi puoi capire certo, che cosa poteva essere per me questo dolore. Indubbiamente devo dire, anche dal tenore delle lettere, non solo quella che abbiamo ricevuto ma quelle anche rintracciabili nel sito di cui prima parlavo, devo dire che c'è anche molta comprensione nei tuoi confronti. Io dico a tutti i radioascoltatori che sono all'ascolto e che hanno ascoltato questa puntata, se hanno qualcosa da aggiungere lo facciano. Noi con Carchiti, al quale diamo l'assoluta buona fede, parleremo sicuramente nei prossimi mesi, quando, ne sono certo, tutti coloro i quali attendono cifre piccole, piccolissime o medie saranno rimborsati. Io stando in questa situazione sto comunque lavorando, sto comunque cercando di farcela, perché sono sempre stato un uomo d'onore, intendo esserlo. Mi trovo così, cioè io avrei potuto dire, sentite, chi se ne frega, certo, la no, data dalla messaggio verde, sì, il sì, mio sì, debito sì. personale è irrisorio. Benissimo, allora noi okay. sicuramente continueremo a seguire questo caso, augurando a te e a tutti i radioascoltatori e le persone coinvolte in questo caso una buona fortuna, un buon termine, diciamo così, di disavventura. Grazie a Vincenzo Carchidi, a Peter Bescapè, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.